Mariposa, Corso Lodi numero 1 a Milano, ti invita all'ascolto di... Benvenuti su Rock FM, benvenuti nell'appuntamento dedicato al mondo dell'hard rock e dell'heavy metal con la voce di Marco Gravelli, prende il via l'ultimo, penultimo appuntamento di questa settimana di Hard and Heavy. Ben ritrovati insieme, il saluto come sempre oltre che a voi e ringraziamento soprattutto a voi che costantemente seguite questo spazio va l'autore Simone Scavo che propone, presenta per questa sera come primo brano un estratto dal nuovo Good to be Bad degli Whitesnake. Già avevamo presentato alcune tracce, già avevamo presentato il singolo, loro sono usciti sul mercato da poche settimane con questo attesissimo nuovo album in studio che non ha assolutamente deluso le aspettative. Un ottimo lavoro per David Coverdale che si è circondato di grandi musicisti tra i quali segnaliamo i due chitarristi Duke Aldrich e Red Beach e il tastierista Timothy Drury. Ricordiamo che Whitesnake erano nati in principio come progetto del cantante inglese David Coverdale subito dopo essere fuoriuscito dai Deep Purple, con i quali militò dal 1973 al 76. L'omonimo esordio risale al 77, mentre l'ultimo album in studio era Restless Heart, datato 1997. La band suonerà insieme agli Europe e Tiger Tales in Italia il prossimo 23 luglio presso la Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Andiamo ad ascoltare un estratto degli 11 brani di cui si compone questo Good to be Bad. È il brano che apre l'album, si intitola Best Years, The Whitesnake. Somebody help me, I'm feeling you. Rick Coverdale, Duke Goldrich, Reed Beach, Ryan Duffy, Timothy Drury e Chris Frazier. Questa è la lineup con la quale ha lavorato appunto Coverdale in questo album che vede il ritorno degli Whitesnake dopo 11 anni con un nuovo album in studio, Good to be Bad, era Best Years. Firewind invece, questa è la prossima band, è una band che arriva dalla Grecia, anche ieri vi abbiamo proposto una band greca con un cantante italiano. Qui il leader è il chitarrista Gus G, che ha già suonato nei Dream Evil, nei Mystic Prophecy e per un breve periodo anche negli Arch Enemy. È un musicista molto stimato nell'ambito metal. Nacquero nel 1998, fu creata appunto come formazione da Gus G quando si trovava negli States per studiare lo strumento principe suo, cioè la chitarra. Fondamentale è stato il suo incontro con David Chastain, che è anche il proprietario della Levitian Records. Chastain, dopo aver ascoltato il suo demo, gli propone per la lineup un cantante e un batterista dei bravissimi ma purtroppo sciolti Ken Zener. Con questa formazione registrerà due album, mentre per il terzo era venuto un cambio di vocalist con l'arrivo del bravo Somapala e il cambio di etichetta a favore dell'importante Century Media. A due anni di distanza dal precedente Elegance è uscito questo ottimo quinto album, The Premonition, che vede la formazione confermata col bravo batterista tedesco Mark Cross, ex Halloween ed ex Metalium, e l'altrettanto bravo cantante greco Apollo Papatanasio, che ha militato nei Majesty, Time Requiem e Medusa. Poi abbiamo il bassista norvegese dei Pagan's Mind. L'album è stato anticipato dal singolo Mercenary Man, che ha raggiunto la posizione numero 6 in Grecia. Presenta 10 tracce, delle quali vi è anche la cover di Maniac, celebre pezzo della musica pop anni 80, ed è disponibile anche in limited edition con un bonus DVD con brani dal vivo e interviste alla band. Un ottimo album consigliato agli amanti dell'heavy e del power metal. Il brano prescelto per questa sera si intitola Circle of Light dal The Premonition Firewind. We'll be right back. Circle of Life, dall'album The Premonition alla formazione greca dei Firewind, che abbandoniamo per andare a Puerto Rico con il Dantesco. Pensate, loro sono portoricani, è il loro secondo album, propongono epic doom metal cantato in lingua madre, quindi una cosa un po' strana. Il leader che fondò il gruppo nel 2002 si chiama Erico, soprannominato per le sue dimensioni la bestia. Il loro album d'esordio Della mano della muerte è uscito nel 2005, questo secondo album si intitola Pagano e viene pubblicato dall'etichetta romana Cruz del Sud, perlomeno qua in Italia. Disponibile anche la edizione in digipack con due bonus track in più. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è quello che apre l'album, Santa Croce Tutulus, questo è appunto il titolo del brano dall'album Pagano, sono i Dantesco. direttamente da Puerto Rico i Dantesco con il loro secondo album Pagano, Santa Croce Tutulus, comunque distribuito e quindi lo troverete facilmente qua in Italia tramite l'etichetta di Roma, Cruz del Sur. Andiamo a un grande personaggio, colui che viene definito la voce del rock, Glenn Hughes. Inglese, con alle spalle band del calibro di Trapeze, di Purple, Black Sabbath come cantante, con i quali ha inciso l'album Seven Star nel 1986. In tema di collaborazione ha lavorato anche con il progetto di Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath, con il quale ha pubblicato due album. La sua carriera solista inizia nel 76 con l'album Play Me Down. L'ultimo album era uscito due anni fa, era Music for the Divine. Questo nuovo si intitola First Underground Nuclear Kitchen, si compone di 10 brani, è registrato in America, le parti di batteria sono state nuovamente suonate dal suo amico Chad Smith, batterista dei Red Hot Chili Peppers. Glenn Hughes suonerà, lo ricordo, qua in Italia per due date, 26 di maggio al Cineteatro Fanin di San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna, e il 27 maggio presso il Music Drome di Milano. E noi, visto che saremo nell'ultima settimana di vita di questa radio, speriamo, contiamo di averlo ospite proprio nel pomeriggio del 27 di maggio. Glenn Hughes con il singolo Love Communion, il brano che abbiamo scelto per rappresentare questo suo nuovissimo album, First Underground Nuclear Kitchen. Communion in my mind. Don't you wanna get back to the grind? Il nuovo album di Glenn Hughes è molto più funk soul rispetto ad altri, anche se nella sua lunga carriera solista aveva già presentato, proposto sonorità simili. Proprio il bello di questo artista è che la sua voce si adatta non solo al rock in genere, all'hard rock, alle ballad, ma anche alla musica soul. È veramente grande anche per questo, bisogna ammirarlo, oltre che tutti i musicisti, grandi musicisti che collaborano con lui. Prossimamente quindi dal vivo in Italia, e veramente ci conto, spero di averlo ospite il 27 pomeriggio, 27 di maggio. Passiamo all'ultimo brano di questa prima parte con i Pharaoh, presentato nelle scorse settimane, il terzo album per questa band heavy metal americana che vede in lineup il cantante Tim Aymar, ex Control Denied. Nati nel 1997, creati dal batterista Chris Black, il loro esordio arriva nel 2003. Nel 2006 è uscito The Longest Night e da un paio di settimane è stato pubblicato questo nuovo lavoro, Be Gone. Andiamo ad ascoltare il brano Rats and Rope, presente anche in una traccia Mark Reale e Mike Flintz dei Riot come special guest.

seconda parte del nostro appuntamento di questa sera di Hard and Heavy su Rock FM in compagnia di Marco Gravelli, con il posizionamento da parte del nostro autore Simone di questa power ballad, i Crown of Glory, album d'esordio pubblicato per l'etichetta Metal Heaven, distribuito in Italia dalla Frontiers Record, una band che arriva dalla Svizzera, composta da ben 6 elementi. Sono nati nel 98, hanno già pubblicato 2 mini CD che gli sono valsi tour di spalla ai Candlemas, ex Rudy Pell e Adoro. Questo è l'album d'esordio, presenta 11 brani prodotti dalla stessa band presso gli House of Audio Studios in Germania, mixate dal celebre Dennis Ward. Il pezzo si intitolava Save Me. Andiamo ad una band italiana, ottimo album, in attesa della pubblicazione del lavoro dei Journey. Loro possono essere considerati Journey italiani, si chiamano My Land, No Man's Land è il titolo di questo loro secondo album, dal quale oggi vado a proporvi le note di The Wind of Late September. volte è proprio vero che non bisogna andare all'estero o soltanto all'estero per trovare buona musica, ma come potete sentire anche in Italia ci sono più che mai validi musicisti. Grande album di AOR, questo ve lo consiglio, se amate questo genere non perdetelo. Si chiamano My Land, band di Milano, No Man's Land è il titolo dell'album. Il pezzo che vi ho proposto era The Wind of Late September. Salutiamo la band in questione, le My Land, e andiamo in Spagna. Loro hanno un po' deluso le aspettative dal vivo quando hanno suonato di recente al concerto dei Camelot qua a Milano con i Firewind. Si chiamano Forever Slave, arrivano dalla Spagna, è il loro secondo album, propongono gothic metal. Formazione a 5 con il cantato femminile ad opera di Lady Angelica. Il gruppo nasce nel 2000 quando fu creato dal chitarrista e proprio dalla cantante Lady Angelica. Il loro esordio è arrivato nel 2005 con un interessante concept album prodotto da Lars Retz dei Metallium, Alice Inferno. Questo invece è il nuovo album che si intitola Tales for Bad Girls, che vede il suono delle chitarre più pesante rispetto al debutto. Il pezzo che vi propongo per i Forever Slave si intitola Gothic Girl. You know my secrets. Come on. Thank you. Appuntamento con le Metal News, parliamo dei Flotsam and Jetsam, pubblicheranno il 16 di giugno un DVD dal vivo. Si intitolerà Once in a Death Time, conterà il concerto che hanno tenuto in occasione del Festival Metal Mania. Saranno presenti 12 tracce e sarà disponibile anche in limited edition con un bonus CD dal vivo. Oltre ad essere presenti anche interviste ed una photo gallery. Verrà pubblicato il 1 settembre il nuovo album della thrash metal band tedesca dei Destruction, che ha annunciato inoltre l'intenzione di voler registrare un DVD che potrebbe essere pubblicato entro la fine dell'anno. La power metal band spagnola dei Dark Moor è già al lavoro sul nuovo album, che verrà nuovamente registrato negli studi italiani chiamati New Scene Studios. L'album comunque dovrebbe uscire tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Pronto il nuovo quarto album della band, proveniente dalle piccolissime isole Faroe, che si era imposta già l'attenzione del pubblico con due pubblicazioni, Eric the Red del 2003 e l'altro album del 2006 dal titolo Ragan Orc. Il gruppo si chiama Tyr o Tyr. Ancora una volta si trovano a mischiare sonorità epiche con il doom, il folk, tanto che parte delle nuove tracce prendono origine dalla musica folk della loro patria, oltre a quella norvegese ed islandese, riarrangiata poi in una chiave più metal. Non per niente l'etichetta dice che propongono un Viking metal. Noi l'abbiamo già in anteprima l'album, non vi dico il titolo perché non saprei pronunciarlo, visto che cantano in lingua madre. Il gruppo si chiama appunto Tyr o Tyr, è scritto T-Y-R, non so francamente nella loro lingua come possa essere pubblicato, pronunciato. L'album arriverà tra breve e si intitola semplicemente Lenda. Er vakker så flott igjen, panne vel opp før dag. De kommer vel over den hede. Vel Romsdals kuster hans, du er i land. Erklærte seg for en fjende. Han er fulgte efter 1400 mann. Som alle hadde vondt i sinne, vel opp før dag. De kommer vel over den hede. De kom frem. Alt folk rett manne. De krenke åndingen. Samme makt rørte jeg dem. De spottet den gretende enke. Vel opp for dag. De kommer vel over den hede. Yeah. il Viking Metal dei Tiro Tire, che verrà pubblicato il 30 di maggio. Ve li abbiamo presentati, proposti in anteprima. Passiamo alla prossima band, che si chiamano i Magica. Il nuovo album si intitola Fist for the Hated ed è una band americana nata nel 1993. I Magica con la K hanno effettuato il loro esordio nel 95 con l'omonimo album che era stato autoprodotto e li aveva fatti notare, diciamo così, a livello locale. Alle spalle hanno 5 album in studio, l'ultimo è stato pubblicato 2 anni fa. Questo nuovo album è il 6º, si intitola Fist for the Hated, presenta 10 brani mixati da Andy LaRocca dei King Diamond. Li ascoltiamo col pezzo dal titolo Your Creation, i Magica. Arriviamo al termine del nostro appuntamento con la prossima band, che si chiamano Mercenari. Abbandoniamo quindi gli Magica. È un ottimo ritorno per una band che arriva dalla Danimarca e propone metalcore, gruppo composto da 6 elementi, anche se all'inizio nel 1991 suonavano thrash metal, poi spostandosi verso un melodic death metal, complice l'affermarsi di band come gli In Flames e Dark Tranquility. Questo album nuovo, che si intitola Architect of Lies, è il 5º e vede l'ingresso di un nuovo bassista cantante per le parti più growls. L'album alterna in effetti tracce potenti ad altre più melodiche, così come il cantato pulito o quello urlato, gridato. Mercenary con The Black and the Endless Never. Vi lascio con questa canzone, vi rimando all'appuntamento di domani sera live, sarà una replica, anche perché domani notte, dalla mezzanotte in avanti, io, Max Deriu e Witching Hour vi aspettiamo per la 6 ore più lunga del metal. Lo spazio Hard and Heavy Nightmare domani notte vi attende qua su Rock FM. Un grazie a voi, un grazie a Simone, a domani notte. Ciao ciao.